strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. ACI, ANFIA e le tre organizzazioni sindacali della metalmeccanica, quindi FIMCISL, FIOMCISL e UILM, hanno scritto congiuntamente alle istituzioni per chiedere misure a sostegno dell'automotive, un settore che rappresenta il 10% del PIL italiano e che impiega nella sua filiera 1.200.000 lavoratori. Secondo le prime stime, nel 2020, causa coronavirus, si perderanno 500.000 immatricolazioni e per questo è urgente prevedere interventi di rilancio, tra cui in primis l'aumento degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli nuovi e più sostenibili. Un'azione che darebbe un aiuto concreto, oltre che ai consumatori, anche alla rete commerciale e alle case costruttrici. Un aprile 2020 impicchiata vertiginosa, quello delle auto a noleggio. In un mese, a causa del blocco della mobilità dovuto al Covid-19, le immatricolazioni si sono praticamente azzerate, toccando quota meno 97% per il settore nel suo complesso e meno 100% per il breve termine. A lanciare l'allarme ANIASA, che ha chiesto al governo di intervenire su due fronti: prevedere un voucher vacanza per le famiglie da poter spendere anche nell'auto noleggio e ripristinare il superammortamento per i veicoli aziendali, che creerebbe benefici a tutta la filiera dell'auto. E con la riapertura della rete commerciale del marchio arriva in concessionaria anche la nuova Seat Leon, l'auto più tecnologica della storia della casa di Barcellona. I punti di forza della nuova arrivata di casa Seat, disponibile anche con motorizzazioni ibride, sono infatti la connettività e i sistemi di sicurezza all'avanguardia, che si uniscono ad altre caratteristiche come la sportività e il design. E a proposito di storia, Seat nel 2020 compie 70 anni. Ascoltiamo la scheda. Fondata il 9 maggio del 1950 con lo scopo di rendere la mobilità più democratica possibile, la società spagnola di automobili da turismo, meglio conosciuta come SEAT, compie 70 anni. Nel 1953, nei pressi di Barcellona, nacque il celebre stabilimento di Zona Franca, che negli anni avrebbe prodotto ben più di 60 modelli del brand, alcuni dei quali veri e propri bestseller. Dopo i primi decenni caratterizzati da produzioni su licenza Fiat, tra cui l'iconica 600, la casa è entrata negli anni 80 in orbita Volkswagen, per poi acquisire un'identità sempre più forte all'interno dello stesso gruppo tedesco. Oggi Seat rappresenta da sola l'1% del PIL spagnolo e il 3% delle esportazioni nazionali, impiegando 73.000 persone, 100.000 se si considera l'indotto. Primo investitore industriale in ricerca e sviluppo del paese, Seat si distingue per l'elaborazione di nuove tecnologie e per il suo impegno nello sviluppo delle smart cities, della guida autonoma, della connettività 5G. Nel 2018 ha lanciato il suo brand sportivo, Cupra, e nella Ginevra virtuale del 2020 ha presentato la sua prima 100% elettrica, Elborn, pronta a diventare di serie entro l'anno. Bene, cambiamo decisamente argomento, perché qualche mese fa è nata all'interno della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia che si chiama Benessere Italia. Diverse le sue competenze, una ci interessa in modo particolare, quella sulla mobilità. Ascoltiamo questa scheda. Favorire la mobilità e i collegamenti fra i territori, promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità, avviare un'economia circolare e sviluppare la transizione energetica verso fonti alternative. Sono questi alcuni dei compiti per cui lo scorso anno è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la cabina di regia Benessere Italia. Le sue finalità, dunque, sono esplicite già dal nome: migliorare le condizioni e la qualità della vita dei cittadini. La cabina di regia ha un carattere prettamente scientifico e ha il compito di affiancare le politiche del governo nella realizzazione del cosiddetto BES, il benessere equo e sostenibile, coordinando le attività dei vari ministeri competenti e coinvolgendo stakeholder e attori italiani e internazionali. Sostenibilità, declinata in tutti i suoi aspetti, è la parola chiave. Ma il suo ruolo è importante anche nella gestione dell'attuale emergenza sanitaria. E ritorniamo in studio, tante quindi le competenze di questa cabina di regia, competenze delle quali parliamo questa sera in compagnia della sua presidente, la consigliera del presidente del Consiglio, Filomena Maggino. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera e grazie a voi. Allora, abbiamo ascoltato tante le competenze di questa cabina di regia, nata qualche mese fa, in realtà nell'estate dello scorso anno. Una su tutte ci interessa in questo momento, è il cosiddetto tavolo della mobilità che dovrete costituire da qui a qualche giorno. In che cosa consiste e quali saranno le sue competenze? Allora, diciamo innanzitutto che dal momento in cui è stata costituita la cabina, ma anche prima, abbiamo cominciato a riflettere anche insieme agli stakeholder che via via andavamo incontrando, quali erano quei settori e quei nodi del paese che diventavano cruciali per promuovere il benessere. Tra i tanti settori, tra le tante questioni che sono state sollevate, una ci è parsa immediatamente cruciale, quella della mobilità. La questione della mobilità nella cabina è vista non tanto in funzione del mezzo di trasporto da identificare, da promuovere per la mobilità, quanto abbiamo cambiato un po' la polarità. E il focus è centrato innanzitutto sui cittadini e sulla loro esigenza di muoversi compatibilmente con le proprie esigenze e con anche le caratteristiche del territorio. Tutto questo anche per promuovere una mobilità che fosse sostenibile. Ecco, la sostenibilità è un termine che può essere declinato in tanti modi, c'è la sostenibilità economica, quella sociale, la sostenibilità ambientale, quella con cui viene identificata solitamente, c'è però un ruolo importante di questa cabina di regia anche per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria. Diciamo che l'attività che stavamo portando avanti prima dell'emergenza si è rivelata al momento in cui l'emergenza è scattata particolarmente utile e fruttuosa, nel senso che noi avevamo identificato determinate criticità che sono anche quelle che poi sono state messe in evidenza da questa crisi. Tra le altre cose di cui ci occupiamo attraverso i tavoli che stiamo costruendo, giusto per fare un esempio, c'è anche l'alimentazione e non a caso molti esperti stanno identificando in questo settore come una delle fragilità delle persone nella capacità di affrontare questa lotta, tra virgolette, con il virus. Certo. Quindi diciamo che nel momento in cui è scattata l'emergenza, tutto il patrimonio di incontri, di riflessioni, ma anche di progettualità che avevamo, è andato immediatamente in prima linea e quindi ci eravamo messi e posti dei tempi di realizzazione, li abbiamo un po' accelerati perché abbiamo verificato che era veramente quanto il paese in questo momento aveva bisogno prima, ne ha ancora più bisogno ora. Tra le vostre iniziative anche alcune davvero di tipo pratico, come la distribuzione di gel disinfettante al mondo dell'autotrasporto, sia di passeggeri che di merci di qualche settimana fa, un modo, come dire, per sensibilizzare anche questo settore. Esattamente, nel momento in cui tutti si sono mossi per poter fare qualcosa nel momento dell'emergenza, noi abbiamo pensato non solo al settore sanitario che comunque necessitava di un supporto e che comunque stava ricevendo un supporto, abbiamo pensato a un settore che stava consentendo e sta consentendo all'Italia di continuare a andare avanti, e quello dei trasporti si è evidenziato immediatamente. Tutti abbiamo ricevuto pacchi a casa e questi pacchi hanno attraversato l'Italia e quindi qualcuno ha consentito a questi pacchi di arrivare a destinazione. E per questo che abbiamo, giusto per fare un esempio dei pacchi, ma anche persone che si sono dovute muovere per lavoro e hanno utilizzato i mezzi. E per questo abbiamo pensato a questo settore, quello dei trasporti, come un settore che necessitava di un almeno un segnale, un piccolo gesto di cura che per noi era importante, quindi gli autotrasportatori, il personale viaggiante delle ferrovie, ma anche il personale del trasporto pubblico locale. Certo, ci stiamo avviando verso una cosiddetta fase 2.1 o fase 3 della mobilità, insomma da qui a qualche giorno probabilmente il traffico sulle nostre strade riprenderà, ci sarà da gestire questa transizione così delicata con il trasporto pubblico che dovrà funzionare necessariamente al 50% della sua capacità per poter in qualche modo rispettare anche le distanze previste dalle normative di sicurezza. Qual è lo scenario che lei si immagina da qui a qualche mese e qual è l'intervento che caratterizzerà l'attività appunto della cabina di regia Benessere Italia? Rispetto alla ripresa sicuramente ci sarà bisogno di un concorso di decisioni. Le aziende dei trasporti, soprattutto quelle di trasporto pubblico, si stanno muovendo per, come ha detto lei, rispettare i criteri del distanziamento, ma anche venendo incontro a esigenze che forse cresceranno in altri momenti della giornata rispetto al passato, e questo anche all'invito che è stato dato anche ai datori di lavoro, comunque alle aziende in generale, di poter distribuire l'ingresso di chi lavora nei posti di lavoro lungo un arco di tempo un pochino più lungo rispetto a quello abituale. Favorire l'home working consentirà anche di alleggerire molto il traffico. Diciamo che io sto vedendo, ci stiamo rendendo conto tutti che gli italiani stanno recuperando anche altre forme di mobilità, quindi in un certo senso andranno anche favorite queste ulteriori scelte. Nel tavolo di lavoro che abbiamo promosso in cabina su mobilità logistica legata alla coesione territoriale, stiamo per coinvolgere tutti gli attori di questa complessità, quindi non solo le associazioni di trasporto, penso a TTS, Astra, ma anche i produttori, ANFIA, le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, l'elenco è lunghissimo, ma anche altri come l'ANCI, ovvero uno stakeholder particolarmente importante che è delegato in quanto comuni a definire dei piani territoriali della mobilità. Tutto questo anche insieme al mondo della ricerca, che mette appunto strumenti che consentono di gestire al meglio questi cambiamenti e questa transizione. E tutti in fondo avvertono che stiamo per cambiare un po' gli stili di vita individuali, e questo stile di vita porterà anche dei cambiamenti nel come ci si muove all'interno delle città, ma non solo, anche fuori delle città. Bene, e noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questi provvedimenti e delle attività della cabina di regia Benessere Italia. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la presidente della cabina di regia, Filomena Maggino. Noi ritorniamo fra pochi minuti per continuare a parlare di auto con le case costruttrici nello spazio dedicato appunto al prodotto. Parleremo in particolare con il CEO di PS a Italy, Gaetano Torel, di tutto ciò che riguarda questo gruppo. A tra poco. I più grandi impegnati nella didattica a distanza, i più piccoli a casa, sulle ginocchia di mamma e papà impegnati nello smart working o in giro per una breve passeggiata, ma lontani dalle aree gioco. Eppure il tempo scuola è importante anche per loro, i bambini di nidi e scuole dell'infanzia, ed è tempo che le attività educative ripartano anche per loro. Come? Scuola nel bosco, piccoli gruppi. Sono Maria Piera Ceci e ogni giovedì vi racconto un'esperienza di scuola possibile anche per i più piccoli nei podcast di Verso il Futuro e Oltre, sempre su radio24.it. Strade e motori. seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, nello spazio ormai destinato e dedicato alle case costruttrici. Abbiamo ospite oggi con noi PSA, in particolare Gaetano Torel, che è il CEO di PSA Italia, il Senior Vice President del gruppo. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Allora, da qualche giorno, da qualche settimana è in pratica ripartita, anche se forse è un termine che non potremmo utilizzare in questo caso, l'industria dell'automotive, in particolare la parte della distribuzione, con la riapertura dei concessionari, dei dealers, quelli che probabilmente sono stati, come abbiamo ribadito più volte nel corso delle nostre trasmissioni, tra i più colpiti da questa crisi, e quindi c'è da in qualche modo ripensare a quello che sarà il futuro dell'automotive in Italia. PSA tra l'altro è impegnato in un progetto di fusione con FCA, e quindi è un tema particolarmente importante per voi anche qui in Italia. Cominciamo dal mercato. Come sta andando in questo momento il mercato di PSA a pochissimi giorni dalla riapertura? Qual è l'impressione, il sentiment, come direbbe qualcuno? Ma guardi, innanzitutto la buona notizia è che dopo 50 giorni siamo ripartiti. Il 4 maggio insomma il settore ha riaperto in totale sicurezza, e questa è la prima notizia. Insomma, i protocolli sono stati implementati, noi abbiamo un protocollo estremamente rigido che abbiamo applicato in tutte le fabbriche europee del mondo, in tutti i nostri settori, che poi abbiamo mutuato con i concessionari. Si chiama We All Care e comprende esattamente tutto quello che può immaginare sulla sicurezza, e che vuol dire che i consumatori possono recarsi in concessionario in totale serenità, e soprattutto possono usare le automobili in totale serenità perché tutte sanificate a ogni utilizzo. È chiaro che la domanda rimane spontanea, insomma è ripartito, sì abbiamo alzato le serrande, ma insomma la domanda di automobili ancora è molto bassa. Insomma, nei primi giorni di maggio ci stiamo girando intorno a un 70% in meno dell'anno scorso. Insomma, se confrontato con aprile è un grande risultato, ma insomma sicuramente il settore non può stare con il 70% di domanda in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Attenzione a non confondere la domanda di nuovi contratti con le immatricolazioni, che invece stanno andando meglio, ma sono figlie ovviamente, certo, di vendite dei mesi precedenti, ovviamente. Sì. Ecco, un RAE, l'associazione che vi rappresenta qui in Italia, l'associazione dei costruttori esteri, ha avanzato delle proposte, una serie di incentivi per il settore. Concordate con queste proposte? Quali sono secondo lei le iniziative in questo momento da mettere in campo per cercare di salvaguardare questo settore? Ma guardi, il settore dell'auto è molto particolare. Noi abbiamo fatto una proposta al governo come un RAE molto semplice e orientata completamente allo svecchiamento del parco. Ricordiamoci sempre che in Italia abbiamo 38 milioni di vetture che girano, di cui 13 milioni sono maggiorenni, cioè più di 18 anni, che forse sarebbe il caso di buttare. E quindi abbiamo fatto una proposta che andava in questa direzione, semplicemente di allargare l'eco bonus che già esiste con una terza fascia fino a 95 grammi, perché sappiamo che ovviamente l'obiettivo di Bruxelles dei 95 grammi resta valido. Abbiamo chiesto di defiscalizzare l'automobile per aiutare il popolo delle partite IVA, quindi di portare la fiscalità dell'automobile almeno per questo periodo, per i prossimi 6, 12 mesi, 18 mesi a livello europeo, quindi alzare il valore da 18.000 a 50.000 euro che si può detrarre e fare il 100% di detraibilità dell'IVA. E ovviamente sui commerciali usare il credito d'imposta come mezzo strumentale, ma questo penso che valga per tutti i mezzi usati per lavorare. On top di questo abbiamo chiesto un contributo speciale per lo stock, perché ricordiamoci nei magazzini che insomma dopo 50 giorni di chiusura abbiamo circa 350.000 automobili che sono le prime a dover essere vendute. Tutte automobili, ricordiamoci, Euro 6.2, quindi automobili tutte strapulite, tutte stramoderne, se confrontate con una vettura da buttare che sia Euro 0, 1, 2 o 3. Certo. Ecco, a proposito di questo, a proposito anche degli incentivi, si è aperto un dibattito su come dovrebbero essere utilizzati, se mai ce ne saranno. C'è chi ritiene, ad esempio, che andrebbero incentivati proprio i distributori, i dealers, quelli che, come dicevamo prima, sono quelli tra i più colpiti in questo momento dalla crisi, piuttosto che il mercato. Come la pensate in questo senso? Ma guardi, è molto semplice. La rete dei concessionari sono 1.600 aziende più o meno, danno lavoro a 200.000 persone. Il problema non è incentivare, il miglior modo per incentivare un'azienda concessionaria è alzare la domanda, perché se la domanda c'è, la concessionaria lavora, la gente viene tolta dalla cassa integrazione e il famoso circolo virtuoso si rimette in moto. Ma c'è di più: con gli incentivi che abbiamo proposto si fa anche un servizio al pianeta, al nostro paese, perché si svecchia un parco che è più vecchio d'Europa. Quindi mi sembra che la soluzione sia esattamente questa, cioè noi dobbiamo alzare la domanda. Se si alza la domanda si riduce la cassa integrazione e le aziende concessionarie possono operare. A proposito del tipo di domanda, qualche mese fa il tema centrale era quello dell'elettrificazione, praticamente sembrava che questo 2020 dovesse essere l'anno dell'elettrico in via definitiva. Poi è arrivato il coronavirus e poi ci sarà una crisi che è stata ampiamente e largamente annunciata nelle vendite. Secondo lei ha ancora senso parlare di elettrificazione a tappe forzate come vorrebbe l'Unione Europea, o piuttosto dovremmo in qualche modo rallentare e puntare, come ha detto anche lei prima, a modelli che sono comunque ecocompatibili? Guardi, si possono fare entrambe le cose, non è una cosa, non esclude l'altra. Il processo di elettrificazione è un processo meraviglioso dell'automobile che si sta trasformando verso la decarbonizzazione, e in questo ovviamente le automobili con la spina, come le chiamo io, sono le uniche automobili veramente che possono partecipare a questo processo, per un motivo semplicissimo: perché avendo una spina possono ricevere energia da una fonte rinnovabile, che è l'obiettivo finale. Insomma, tutte le altre forme chiaramente dipendono ancora dal petrolio. Ora, detto questo, il processo di elettrificazione è un processo che durerà dai 5 ai 10 anni. Il 2020 è sicuramente un anno dove le vetture con la spina stanno facendo ingresso finalmente nella vita quotidiana dei consumatori, e questo dipende da due fattori. Il primo, l'offerta. Se prendo il gruppo PSA, noi abbiamo 9 vetture in gamma che hanno la spina, e sono vetture che i clienti conoscono. Se lei pensa alla 208 auto dell'anno, disponibile benzina diesel elettrico, oppure la nuova Corsa, sempre uguale benzina diesel elettrico, la DS3 Crossback, tutte automobili che i consumatori conoscono e che quindi finalmente potranno scegliere quale tecnologia prendere. Quindi io penso che l'elettrificazione continuerà, a livello di mix continuerà a salire, poi in valori assoluti, siccome il mercato sarà molto più basso, saranno meno automobili, ma la cosa importante è il processo verso l'elettrificazione dell'automobile, che non si può fermare e non può essere fermato dal Covid. Certo, voi tra l'altro avete fatto una scelta, a differenza anche di altre case costruttrici di altri gruppi, cioè quella di avere una piattaforma unica su cui sviluppate sia elettrico sia termico, quindi in qualche modo vi siete quindi cautelati rispetto a questa scelta del mercato. Ma guardi, in realtà è una scelta ingegneristica questa, una sfida ingegneristica, nel senso che il gruppo ha lavorato negli ultimi 3 anni, 4 anni nello sviluppare 2 piattaforme che sono appunto multi energy, quindi piattaforme sulle quali sulla stessa linea si possono costruire le vetture sia termiche che elettriche, e le vetture sono identiche. Cioè, qual è la vera sfida? Il concetto qui è che un consumatore oggi può scegliere una 208 e, una volta che ha scelto l'automobile, poi sceglie la tecnologia che più si adegua ai suoi stili di vita, e quindi probabilmente l'elettrico ovviamente farà parte di chi magari sta in città, fa pochi chilometri, oppure ha un garage e quindi può ricaricare a casa. Ma l'importante è che il consumatore compra ancora l'automobile che conosce e che ama. Ecco, la piattaforma Multi Energy consente questo, perché se lei prende una 3008 oppure una Opel Grandland, sono identiche, ma c'è la versione diesel, benzina e plug-in hybrid grazie alla piattaforma Multi Energy. L'altro elemento fondamentale è che, siccome si fanno sulla stessa linea di produzione, noi siamo in grado di essere flessibili rispetto alla domanda del consumatore. Quindi, se il processo di elettrificazione dovesse essere più veloce o più lento, siamo in grado di adattare la linea di produzione alle esigenze del consumatore. Certo. Ecco, visto che ha aperto questo fronte, quali saranno le auto che saranno presentate al mercato italiano da qui alla fine dell'anno? Ma guardi, per quanto riguarda DS, presenteremo la DS9, che è l'ammiraglia, che ovviamente in Italia avrà pochi volumi perché è un segmento molto piccolo, ma insomma per il brand rappresenta un po', se vogliamo, la flagship, che guarda caso in Italia, per esempio, venderemo solamente con la spina, quindi sarà solamente un plug-in hybrid. Poi abbiamo la Citroën, che invece va a presentare la Mi, che è questo quadriciclo. Non è un'automobile, ma è un quadriciclo, quindi è una mobilità innovativa che post-Covid, secondo me, avrà un ruolo molto importante, perché sono 2,4 metri di automobile, quindi più piccola addirittura della prima Smart, due posti, solo elettrica ovviamente, 70 km di autonomia per la mobilità urbana, e che noi venderemo solo come noleggio, cioè non si potrà acquistare ma si potrà solo utilizzare, che è l'altro, secondo me, grande rivoluzione del Covid. E poi ovviamente su Citroen la nuova C3 che arriverà, la nuova classe C, Opel a fine anno presenterà la nuova Mokka. Quindi insomma abbiamo i commerciali elettrici, quindi abbiamo tante novità che il gruppo PSA continuerà a lanciare, come peraltro ha sempre fatto negli ultimi 12 mesi. Quindi un calendario che non sarà intaccato da questa emergenza? No, avremo solamente qualche ritardo di un paio di mesi dovuto certo allo shutdown delle fabbriche, del lockdown. Certo. Bene, termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Gaetano Torel, CEO di PSA Italy. Grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con la rubrica dedicata al mondo dell'auto e della mobilità torna come al solito sabato alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.